Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Benvenuti a Tra le righe. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Andrea Molessini, vincitore del Premio Campiello 2011 per il romanzo Non tutti i bastardi sono di Vienna. Le interviste di Tra le righe. Benvenuto Andrea Molessini su Radio Libriamoci Web. Grazie. Buonasera a tutti. Lei ha portato in Casa Sellerio il Premio Campiello a distanza di 30 anni dall'esordio vincente di Bufalino con Diceria dell'Untore. Che sapore ha avuto questo riconoscimento? Ho detto più volte una ovvietà, cioè che vincere è più bello che partecipare, e qui è ovvio. Per Sellerio credo sia stata una gran bella cosa ed è stato anche un modo di onorare la memoria di Elvira Sellerio che era scomparsa da poco. E credo che il mio libro sia stato il primo pubblicato dopo la scomparsa di Elvira, quindi è stato un modo anche, come dire, naturale di onorare, insomma, la sua fedeltà alla tradizione letteraria italiana e la felicità con cui è servita questa tradizione letteraria. Il suo romanzo, Non tutti i bastardi sono di Vienna, è ambientato in un preciso momento storico, 1917, dopo la disfatta di Caporetto, ma gli effetti drammatici della guerra passano dalla trincea alle case, no? Viene invasa Villa Spada, il nemico così invade gli spazi intimi, quelli che attengono alla famiglia, gli amici. Quanto c'è di personale in questo? Cioè la trama trae origine e forza da qualcosa che le appartiene o che in qualche modo è appartenuto alla sua famiglia? Lei è ben calato nella scrittura di questo romanzo? Sì, allora il primo spunto che ha generato, insomma, quell'impeto necessario a scrivere un romanzo è stato il ritrovamento di un diario che è scritto dalla sorella del mio nonno materno, che è Maria Spada, che era rimasta lì mentre il resto della famiglia è scappato insieme all'esercito italiano che fuggiva sulla destra Piave. Lei è rimasta nella sua villa e quindi ha tenuto questo diario e ha descritto questa situazione di occupazione, cioè di essere ospiti nella propria casa, che è una situazione metaforicamente terribile e anche molto imponente, e in un certo qual modo credo sia qualcosa che tutti sentiamo sotto pelle, cioè tutti ci sentiamo un po' spodestati, non così a proprio agio nel nostro destino. Sentiamo che la cultura moderna, dell'Occidente moderno, è stata un po' usurpata in qualche modo, non siamo più in sella. Ci sono decisioni che vengono prese a Bruxelles o a Pechino o a Tokyo che influiscono di più sulle nostre vite che quelle prese sotto casa. Ecco, quindi siamo effettivamente molto in balia, diciamo, dell'antichivieni degli eventi. È una sensazione di precarietà e di incertezza che credo oggi tutto l'Occidente conosca. Quindi poi naturalmente non c'è il dramma che c'è nella guerra, dove le persone muoiono e soffrono e patiscono terribili umiliazioni e la fame, stupri, violenze, non c'è questa situazione estrema di estrema tragedia. Però il disagio di una sorta di invasione di invisibile, di un'inquietudine invisibile ma feroce, questo la conosciamo tutti, credo. Sì, a proposito di guerra, il suo libro dà al lettore un ampio respiro, cioè si può prendere la storia, in Italia non c'è la situazione di guerra di cui parla lei appunto, ma parlando in altri paesi, là vivono una situazione di invasione simile a questa, quindi nei paesi vicino a noi, ecco. non c'è bisogno, ecco, di andare molto lontano con la fantasia, ecco. Quindi là vivono un'inquietudine di dolore oltre all'invasione, perché anche noi occidentali nei loro confronti, parlo dei paesi orientali, insomma, Afghanistan, sì, Iraq, ecco, noi sì, siamo degli occupanti, sì. È una situazione che è sempre esistita nella storia umana. Qui nel mio libro la cosa che mi ha stupito quando ho iniziato a lavorarci è che in quasi 100 anni, dal 15, diciamo, dal 14 dello scorso secolo, nessuno aveva mai messo in scena la resistenza italiana della Grande Guerra. Mentre la Seconda Guerra Mondiale, con la sua resistenza, ha avuto una scia letteraria lunga e profonda, quell'ultimo anno di guerra, dove sulla sinistra piave, 1 milione di italiani hanno convissuto con gli occupanti e hanno messo in atto molte azioni di resistenza, non tanto militare, certo, più azioni per difendere la propria dignità di esseri umani, di donne soprattutto, e anche di italiani comunque. Ebbene, questo non ha lasciato una scia letteraria storia, e questo mi ha inquietato e stimolato ad un tempo, e anche incoraggiato, perché, diciamo, esplorare un territorio vergine è sempre un'esperienza un po' magica, diciamo. A proposito di cronaca, da alcuni anni si ha la tendenza a romanzare un fatto di cronaca eclatante che ha scosso l'opinione pubblica, sì, la società, diciamo un po', mi permetto di dire, a cadavere caldo. Cioè, non pensa, sì, che invece la storia abbia bisogno di decantare e che debba essere restituita ad un pubblico più distante rispetto a quello coinvolto emotivamente dai fatti accaduti? Sì, lo penso, e come, è per questo che ho scritto un romanzo, diciamo, ambientato 90 anni fa. Credo che l'imperio proprio prepotente della cronaca sia dal punto di vista letterario dannoso. Capisco che siamo talmente abituati e appiattiti sull'attualità, perché i mass media moderni come la radio, la TV, anche i quotidiani, le cose che durano un giorno, ebbene, tutti i giorni entrano nelle nostre case, in tutti i modi. E quindi noi abbiamo l'abitudine a pensare che come fossimo degli esseri senza un passato. Ma il passato c'è, ed è profondo ed è importante, perché la nostra identità di oggi è generata da secoli di vita di chi ci ha preceduto, che ci ha lasciato un'eredità. E quindi riflettere su un momento della storia nazionale di 90 anni fa può, diciamo, rispecchiare in modo più profondo, interessante, sorprendente anche ciò che avviene oggi, piuttosto che riflettere direttamente sull'attualità. Io credo che avesse ragione Eliot, che in un saggio del 44 dedicato a Virgilio dichiarò questo, che l'uomo occidentale del secondo dopoguerra sarebbe stato sempre più un uomo affetto da provincialismo storico, non tanto geografico, perché con gli spostamenti, con gli aerei, tutti andiamo in giro, e il vecchio campanilismo, diciamo, è un po' più fuori moda adesso che un tempo, ma il provincialismo storico, cioè un uomo che non è più in grado di viaggiare nel tempo, di conoscere il proprio passato, non più incuriosito abbastanza dalle proprie radici, e quindi in fondo più facilmente schiavizzabile da ciò che accade nel momento, perché uno tende a pensare che ciò che accade nel presente sia destinato a durare, mentre niente dura, eppure, tranne forse la nostra incertezza, le nostre paure, il nostro bisogno di gioire, di piacere, cose, cioè, tranne quei sentimenti, quelle sensazioni che si riproducono in ogni epoca, in ogni luogo. Però, diciamo, la letteratura ha il compito sempre e comunque di difendere il mistero dell'identità e dell'individualità umana, perché noi mettiamo in scena delle tragedie, cioè la sofferenza dei singoli all'interno del fiume della storia collettiva e all'interno, diciamo, del grande spettacolo dell'azione che tutto travolge e tocca, diciamo. Tornando al suo romanzo, i personaggi sono ben definiti, senza sbavature. Emergono in maniera precisa le donne, dalla nonna del giovanissimo, certo, Paolo, che è la voce narrante, la zia Maria, che di cui la nonna dice addirittura sembra che abbia dentro di sé un uomo, no? Da Rosetta, la cameriera, la figlia Loretta, Giulia, sono donne capaci di determinare in bene e il male il corso degli eventi, forse più degli stessi uomini che li hanno creati. Sì, sembrano donne moderne, mi sbaglio? Sì, per certi versi sì, ma diciamo che proprio il caso di questa mia prozia Maria Spada, lei era così, era veramente un uomo, era un po' maschile, infatti nelle leggende di famiglia la chiamavano il carabiniere anche, cioè aveva quindi degli aspetti di durezza, delle asprezze, delle durezze, delle severità che siamo più abituati a considerare maschili. Però teniamo conto che in tempo di guerra le donne diventano il nervo silenzioso e imperioso della nazione, perché sono loro a subire anche l'oltraggio del nemico quando il paese viene invaso, e sono loro che, proprio perché questo non può cambiare, le donne fanno i bambini, li allattano, li proteggono, li educano, li conducono, insomma, nei primi passi del mondo. Quindi le donne sono la garanzia del futuro. Non per caso inizia anche con uno stupro di gruppo il libro, che tra l'altro è una cosa che è avvenuta veramente, in un altro paese, io l'ho portata per ragioni drammatiche lì, ma è avvenuta davvero. Perché avviene questo? È l'estremo insulto, questo crimine, che viene fatto per, come dire, vendicarsi della tribù sconfitta, per dire gli sconfitti siete completamente sconfitti, tanto che possiamo rubare le vostre donne, possiamo addirittura far sì che rimangano incinte dei nostri bambini, noi che siamo i vostri nemici. È avvenuto anche in Serbia 15-20 anni fa, no, quei campi dello stupro, è avvenuto molte volte nella storia umana, purtroppo è un crimine atroce ed è un rito atavico, demoniaco, terribile, di cui le donne fanno le spese. Ma le donne anche in guerra, in quella guerra in particolare, hanno retto l'urto della violenza, dei figli che tornavano morti a caso, mutilati, dei mariti che non tornavano, facevano le munizioni, sono andati in fabbrica, hanno sostituito gli uomini, la condizione sociale della donna, proprio e soprattutto in Italia nel 17 al 18, nell'ultimo anno di guerra, è cambiata radicalmente proprio. Quindi cioè il fatto che le donne siano così importanti rispecchia anche una verità storica in qualche modo, non è solo, diciamo, una necessità del romanzo imposta, diciamo, dalle esigenze narrative, ma credo rappresenti bene anche qualcosa che davvero è avvenuto. Tra i personaggi maschili, io un occhio di riguardo lo riservo al nonno di Paolo, certo, che non lesina battute mordaci neanche di fronte ad un'impiccagione, ad un'esecuzione capitale. È in lui che lei ha trasferito il senso un po' umoristico della vita anche nelle tragedie, quel senso di umorismo che ci aiuta poi a resistere alle brutture che ci possono capitare nella vita. Certo. Sì, lui è diciamo come un basso continuo, è l'ironia del libro, e credo che tutto, Non tutti i bastardi sono di Vienna, sia un romanzo che è una tragedia, ma è raccontato con il tono e nei modi della commedia. Quindi il nonno rappresenta proprio l'aspetto di commedia, che vivifica poi la tragedia, perché questo è molto importante. Se non ci fosse questa voce umoristica, diciamo, il libro sarebbe anche meno leggero, quindi alla fine anche meno affascinante in fondo. Beh, certo. Lei, se non ricordo male, quando ha ritirato il premio, oltre ad aver fatto una dedica a Elvira Sellerio, ha avuto anche un pensiero per librai e bibliotecari. Sì. Le vorrei chiedere, si parla sempre, no, del momento che sta vivendo il mondo dell'editoria tradizionale e di conseguenza anche del momento che vivono i librai, ma secondo lei che momento stanno vivendo invece i lettori? Li vede un po' così disorientati tra tablet, i reader e il libro cartaceo? E poi com'è Andrea Molessini come lettore? Allora, guardi, io non credo che siano più disorientati di tanto, non credo che sia molto importante il supporto con il quale la letteratura viene divulgata, che sia letta da un supporto elettronico, sulla carta non cambia molto. Io sono ormai anzianotto, quindi amo la carta e sono legato al libro, mi piace di più, non c'è bisogno delle pile per farle funzionare, mi piace fare le orecchiette, sottolineare lo stropicciaggio, è più sensuale, sento l'odore dell'inchiostro, insomma sono così, però non mi turba per niente che i ragazzi preferiscono leggerlo su Twitter, insomma l'importante è che leggano, cioè, però io l'ho dedicato il premio ai librai e bibliotecari anche perché credo che loro siano una sorta di prima linea di difesa, ecco, e anche una sorta di ultima ridotta tra noi e i predoni, perché non dimentichiamoci che poco più di mezzo secolo fa in mezze piazze d'Europa i libri venivano bruciati, cioè quando si vuole offendere l'uomo e la cultura si attacca al libro, il libro rimane veramente il veicolo del pensiero e quindi un argine alla barbarie, e forse l'argine più efficace a difesa dell'uomo e della cultura tutta. Lei ha nominato i ragazzi e qui infatti casca a fagiolo, come si direbbe. Per concludere le chiedo, lei arriva dal mondo della narrativa, no? Per bambini e ragazzi. Cito testualmente Roald Dahl che disse di se stesso: "Non ho niente da insegnare, voglio soltanto divertire, ma divertendosi con le mie storie i bimbi imparano la cosa più importante, il gusto della lettura." Lei è d'accordo con questa affermazione, o meglio con la prima parte dell'affermazione? Sì, ma direi con tutto, è proprio così, è proprio così. Non è compito della poesia insegnare. L'unica cosa che la poesia non può mai dimenticarsi di fare è elogiare tutto ciò che esiste, che accade, perché esiste e perché accade. È un inno alla vita, sempre. Pronto? Sì, grazie. L'ascoltavo con grande attenzione e la ringrazio per la sua disponibilità e per essere stato con Ma di noi. niente. Grazie Grazie mille, mille. buona serata. Arrivederci. Grazie. Le interviste di Tra le righe. Tra le righe oggi si conclude. Vi ricordo il libro Non tutti i bastardi sono di Vienna di Andrea Molesini, pubblicato da Sellerio. Noi ci risentiamo alla prossima. Un saluto da Adelaide.